140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24, li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @ Marta Cagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Hotel Excelsior, Venezia. Uno dei più grandi musicisti e autori di colonne sonore, premio alla carriera al Soundtrack Stars Awards alla Mostra del Cinema, Nicola Piovani. Lo prendo anche come un premio alla mia carriera futura, perché io per metodo mi metto sempre a lavorare immaginando che la partitura migliore ancora non l'ho scritta, che la dovrò scrivere, quindi prendiamolo come un premio anche alla carriera futura. A proposito di compositori, quelli che l'hanno preceduta, Morricone, Desplat, Sakamoto. Beh, insomma, io conosco bene di persona Ennio Morricone e possiamo dire che è un musicista tout court a 360 gradi, perché di più non ce ne sono, sennò sarebbe a 680 gradi. È un musicista in grado di scrivere musica da concerto e spesso andiamo a sentirla ai concerti, non solo nelle musiche che ha scritto per il cinema. Poi ha dimostrato di essere, quando ha voluto, autore di canzoni di altissimo livello, e poi ha dimostrato di conoscere il cinema come pochi altri. Poi, dopo naturalmente aver parlato di Morricone, se parliamo di Desplat, parliamo del numero uno in questo momento delle nuove leve, anche se ha un'età per cui non è una nuovissima leva, però è veramente un maestro con una personalità. Fa il lavoro del commento musicale, che è il lavoro artigianale che tutti noi facciamo, ma nello stesso tempo ci arriva una personalità forte, e questa è una cosa molto rara da coniugare. Mi smentisca se è falso, che quest'estate lei stava lavorando alla colonna sonora del prossimo film di Laura Morante e al suo Cantico delle Creature, è così? Sì, il film di Laura Morante è già cominciato a lavorarci. E, l'opera, la cantata sul Cantico delle Creature di San Francesco, che doveva presentarsi ad Assisi il 25 settembre, per motivi complessi, tecnici, slitta di un anno, però nel concerto Assisi a settembre eseguirò il preludio di questa cantata, che appunto si chiama Preludio al Cantico. Suo primo ricordo della mostra, ho sempre letto, anni 60. La prima volta che io ho messo piede alla mostra era quando la mostra era occupata, che non c'era. Si chiamavano le giornate democratiche del cinema. Era il trionfo dell'Eschimo, il trionfo dell'ingresso gratuito, dell'entra, esci. Era il trionfo del dibattito, anche focoso. Ricordo in Piazza San Marco un dibattito potentissimo, nel quale, dopo che tutti si erano avvicendati, i grandi registi, a lodare la mostra democratica contro la mostra del Lido e dello smoking, arrivò Pasolini, Pierpaolo Pasolini, che con un'acutezza incredibile disse: questo modo di fruire il cinema mi sembra un modo consumistico, entrare, uscire, non aspettare l'inizio, non aspettare la fine, vedere un pezzetto, sbocconcellare. E in questa critica, fra l'altro, lui aveva anticipato l'idea del telecomando, quindi della dispersione della struttura. Cioè, secondo me la cultura comincia dal rispetto della struttura dell'opera d'arte, per cui nonostante tutto preferisco il Lido dello smoking. Lei ha fatto anche l'attore e una volta si è giocato la statuetta dell'Oscar a carte in Boris, è rimasta mitica quella scena. L'attore, per l'unica volta, gli amici di Boris mi hanno chiamato per questa scena che era scritta per me, mi sono divertito molto, anche perché mi piaceva la leggerezza del clima di quel set, di quei registi e di quegli sceneggiatori. Ma è vero, è di Piovani per La vita è bella. Portato la statuetta vera? Mi hanno telefonato la sera prima dicendo: ma come facciamo? Dobbiamo un po' portare la statuetta vera o facciamo un facsimile? No, dovete fare un facsimile perché la statuetta è pericolosa, la rubano, me l'hanno detto tutti quanti, sta in cassetta di sicurezza, per cui fate il facsimile. E invece poi la mattina dopo io l'ho portata, però questa ha evitato che ci fossero tentazioni da parte di qualcuno. L'abbiamo affidata alla sicurezza del set e abbiamo girato con la statuetta vera. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Nicola Piovani. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.